89. Gnocchi di patate. La famiglia dei gnocchi è numerosa. Vi ho già descritto gli gnocchi in brodo del numero 14. Ora vi indicherò gli gnocchi di patate e di farina gialla per minestra e più avanti quelli di semolino e alla romana per tramesso o per contorno e quelli di latte per dolce. Patate grosse gialle, grammi 400. Farina di grano grammi 150. Vi noto la proporzione della farina per intriderli, onde non avesse ad accadervi, come ad una signora che me presente, appena fondato il mestolo per muoverli nella pentola, non trovò più nulla. Gli gnocchi erano spariti. O dove erano andati? Mi domandò con premurosa curiosità un'altra signora a cui per ridere raccontai il fatto, credendo forse che il folletto li avesse portati via. Non inarchi le ciglia, signora, risposi io, che lo strano fenomeno è naturale. Quegli gnocchi erano stati intrisi con poca farina e appena furono nell'acqua bollente si liquefecero. Cuocete le patate nell'acqua, o meglio a vapore, e calde bollenti spellatele e passatele per istaccio. Poi intridetele con detta farina e lavorate alquanto l'impasto con le mani, tirandolo a cilindro sottile per poterlo tagliare a tocchetti lunghi 3 centimetri circa. Spolverizzateli leggermente di farina e prendendoli uno alla volta, scavateli col pollice sul rovescio di una grattugia. Metteteli a cuocere nell'acqua salata per 10 minuti. Levateli asciutti e conditeli con cacio burro e sugo di pomodoro, piacendovi. Se li volete più delicati, cuoceteli nel latte e serviteli senza scolarli. Se il latte è di buona qualità, all'infuori del sale, non è necessario condimento alcuno o tutt'al più un pizzico di parmigiano.